Il terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il principe fece cenno al russo di sedere. Lo guardò fisso negli occhi. Pietro, parliamoci da uomo a uomo. Tu pure sei immischiato in queste faccende. Immischiato non era, rispose, era padre di famiglia e questi rischi sono roba da giovanotti come il signorino Tancredi. Si figuri se nasconderei qualcosa a vostra eccellenza, che è come mio padre. Intanto, 3 mesi fa, aveva nascosto nel suo magazzino 150 ceste di limoni del principe e sapeva che il principe lo sapeva. Ma devo dire che il mio cuore è con loro, con i ragazzi arditi. Si alzò per lasciare entrare Bendicò, che faceva tremare la porta sotto il suo impeto amichevole. Si risiede. Vostra eccellenza lo sa. Non se ne può più. Perquisizioni, interrogatori, scartoffie per ogni cosa. Uno sbirro a ogni cantone. Un galantuomo non è libero di badare ai fatti propri. Dopo, invece, avremo la libertà, la sicurezza, tasse più leggere, la facilità, il commercio. Tutti staremo meglio. I preti soli ci perderanno. Il Signore protegge i poveretti come me, non loro. Don Fabrizio sorrideva. Sapeva che era proprio lui, russo, che attraverso interposta persona desiderava comprare Argivocale. Ci saranno giorni di schioppettate e di trambusti, ma Villa Salina sarà sicura come una rocca. Vostra Eccellenza è nostro padre, ed io ho tanti amici qui. I piemontesi entreranno solo col cappello in mano per riverire le eccellenze vostre. E poi lo zio è il tutore di Don Tancredi. Il principe si sentì umiliato. Adesso si vedeva disceso al rango di protetto degli amici di Russo. Il suo solo merito, a quanto sembrava, era di esser zio di quel moccioso di Tancredi. Poco dopo alcune parole di Russo gli diedero sollievo. Tutto sarà meglio, mi creda, eccellenza. Gli uomini onesti e abili potranno farsi avanti. Il resto sarà come prima. Questa gente, questi liberalucoli di campagna, volevano soltanto avere il modo di approfittare più facilmente, punto e basta. Le rondini avrebbero preso il volo più presto. Ecco tutto. Del resto, ce n'erano ancora tante nel nido. Forse hai ragione tu, chi lo sa. Adesso aveva penetrato tutti i riposti sensi. Le parole enigmatiche di Tancredi, quelle enfatiche di Ferrara, quelle false ma rivelatrici di Russo, avevano ceduto il loro rassicurante segreto. Molte cose sarebbero avvenute, ma tutto sarebbe stato una commedia, una rumorosa, romantica commedia, con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca. Questo era il paese degli accomodamenti. Non c'era la furia francese, anche in Francia, d'altronde, se si eccettua il giugno del 48, quando mai era successo qualcosa di serio. Aveva voglia di dire al russo, ma la innata cortesia lo trattenne. Ho capito benissimo, voi non volete distruggere noi, i vostri patri. Volete soltanto prendere il nostro posto, con dolcezza, con buone maniere, mettendoci magari in tasca qualche migliaio di ducati. È così. Tuo nipote, caro russo, crederà sinceramente di essere barone. E tu diventerai, che so io, il discendente di un boiardo di Moscovia, mercè il tuo nome, anziché il figlio di un cafone di pelo rosso, come proprio quel nome rivela. Tua figlia già prima avrà sposato uno di noi. Magari anche questo stesso Tancredi, con i suoi occhi azzurri e le sue mani dinocolate. Del resto è bella, e una volta che avrà imparato a lavarsi, perché tutto resti com'è. Com'è nel fondo, soltanto una lenta sostituzione di ceti. Si alzò. Pietro, parla con i tuoi amici. Qui ci sono tante ragazze, bisogna che non si spaventino. Ero sicuro, eccellenza. Ho di già parlato. Villa Salina sarà tranquilla come una badia. E sorrise, affettuosamente ironico. Thank you. Don Fabrizio uscì seguito da Bendicò. Voleva salire a trovare padre Pirrone, ma lo sguardo implorante del cane lo costrinse invece ad andare in giardino. Ma i sovrani nostri, e la legittimità doveva finire. Il pensiero lo turbò un momento, non si poteva eludere. Per un attimo fu come Malvica. Questi Ferdinandi, questi Franceschi tanto disprezzati, gli apparvero come dei fratelli maggiori, fiduciosi, affettuosi, giusti, dei veri re. Ma le forze di difesa della calma interiore, tanto vigilanti nel principe, accorrevano già in aiuto con la moschetteria del giure, con l'artiglieria della storia. E la Francia? Non è forse illegittimo Napoleone III? E non vivono forse felici i francesi sotto questo imperatore illuminato che li condurrà certo ai più alti destini? Del resto, intendiamoci bene, Carlo III, lui, era forse perfettamente a posto? Anche la battaglia di Bitonto fu una specie di quella battaglia di Corleone, o di Bisacquino, o di che so io, nella quale i piemontesi prenderanno a scopole i nostri. Una di quelle battaglie combattute affinché tutti rimanga com'è. Del resto, neppure Giove era il legittimo re dell'Olimpo. Era ovvio che il colpo di stato di Giove contro Saturno dovesse richiamare le stelle nella sua memoria. Lasciò Bendicò affannato dal proprio dinamismo, salì una lunga scaletta e sboccò nella grande luce azzurra dell'osservatorio. Padre Pirrone, con l'aspetto sereno del sacerdote che ha detto la messa e preso il caffè forte con i biscotti di Monreale, sedeva ingolfato nelle sue formule algebriche. I due telescopi e i tre cannocchiali, accecati dal sole, stavano accucciati buoni buoni, col tappo nero sull'oculare, bestie ben avvezze che sapevano come il loro pasto venisse dato solo la sera. La vista del principe sottrasse il padre ai suoi calcoli e gli riportò alla mente la brutta figura della sera prima. Si alzò, salutò ossequioso, ma non poté fare a meno di dire: «Vostra Eccellenza viene a confessarsi?» Don Fabrizio, cui il sonno e le conversazioni della mattinata avevano fatto dimenticare l'episodio notturno, si stupì: «Confessarmi? Ma non è sabato oggi?» Dopo ricordò e sorrise. «Veramente, padre, non ce ne sarebbe neppur bisogno, sapete già tutto. Questo insistere nell'imposta complicità irritò il gesuita. Eccellenza, l'efficacia della confessione non consiste solo nel raccontare le colpe, ma nel pentirsi di quanto si è commesso di male. E finché non lo farete e non l'avrete dimostrato a me, resterete in peccato mortale, che io conosca le vostre azioni o no». La quiete che le scoperte politiche della mattinata avevano instaurata nell'anima del principe era tale che egli non fece se non sorridere di ciò che in un altro momento gli sarebbe sembrato insolenza. Aprì una delle finestre della torretta. Il paesaggio ostentava tutte le proprie bellezze. Sotto il lievito del forte sole ogni cosa sembrava priva di peso. Il mare sullo sfondo era una macchia di puro colore. Le montagne che la notte erano apparse temibili, piene di agguati, sembravano ammassi di vapore sul punto di dissolversi. Nella rada le navi straniere all'ancora, inviate in previsione di torbide, non riuscivano ad immettere un senso di timore nella calma stupefatta. Il sole, che tuttavia era ben lontano in quel mattino del 13 maggio dalla massima sua foga, si rivelava come l'autentico sovrano della Sicilia. Il sole violento e sfacciato, il sole narcotizzante anche, che annullava le volontà singole e manteneva ogni cosa in una immobilità servile, cullata in sogni violenti, in violenze che partecipavano dell'arbitrarietà dei sogni. «Ce ne vorranno di vittorie Emanueli per mutare questa pozione magica che sempre ci viene versata». Padre Pirrone si era alzato, aveva raggiustato la propria cintura e si era diretto verso il principe con la mano tesa. «Eccellenza, sono stato troppo brusco. Conservatemi la vostra benevolenza, ma date retta a me. Confessatevi». Il ghiaccio era rotto e il principe poté informare padre Pirrone delle proprie intuizioni politiche. Il gesuita però fu ben lontano dal condividere il sollievo di lui, anzi ridiventò pungente. In poche parole, voi signori vi mettete d'accordo con i liberali, che dico con i liberali, con i massoni addirittura, a nostre spese, a spese della Chiesa, perché è chiaro che i nostri beni, quei beni che sono il patrimonio dei poveri, saranno arraffati e malamente divisi fra i caporioni più imprudenti. E chi dopo sfamerà le moltitudini di infelici che ancora oggi la Chiesa sostenta e guida? Il principe taceva. Come si farà allora per placare quelle turbe disperate? Ve lo dirò subito, eccellenza. Si getterà loro in pasto prima una parte, poi una seconda, e alla fine la totalità delle vostre terre. E così Dio avrà compiuto la sua giustizia, sia pure per tramite dei massoni. Il Signore guariva i ciechi del corpo, ma i ciechi di spirito dove finiranno? L'infelice padre aveva il fiato grosso. Un sincero dolore per il previsto sperpero del patrimonio della Chiesa si univa in lui al rimorso per essersi di nuovo lasciato trascinare, al timore di offendere il principe cui voleva bene e del quale aveva sperimentato la collera rumorosa, ma anche l'indifferente bontà. Sedeva quindi guardingo e sogguardava don Fabrizio che con uno spazzolino ripuliva i congegni di un cannocchiale e sembrava assorto nella meticolosa sua attività. Dopo un po' si alzò, si pulì a lungo le mani con uno straccetto. Il volto era privo di qualsiasi espressione. I suoi occhi chiari sembravano intenti soltanto a rintracciare qualche macchiolina di grasso rifugiatasi alla radice delle unghie. Giù, intorno alla villa, il silenzio luminoso era profondo, signorile all'estremo, sottolineato più che disturbato da un lontanissimo abbaiare di bendicò che insolentiva il cane del giardiniere in fondo all'agrumeto. Don Fabrizio poi si avvicinò al tavolo del padre, sedette, e si mise a disegnare puntuti gigli borbonici con la matita ben tagliata che il gesuita nella sua collera aveva abbandonata. Aveva l'aria seria ma tanto serena che in padre Pirrone svanirono subito i crucci. «Non siamo ciechi, caro padre, siamo soltanto uomini. Viviamo in una realtà mobile alla quale cerchiamo di adattarci come le alghe si piegano sotto la spinta del mare. Alla Santa Chiesa è stata esplicitamente promessa l'immortalità. A noi, in quanto classe sociale, no. Per noi, un palliativo che promette di durare 100 anni equivale all'eternità. Potremo magari preoccuparci per i nostri figli, forse per i nipotini, ma al di là di quanto possiamo sperare di accarezzare con queste mani, non abbiamo obblighi, ed io non posso preoccuparmi di ciò che saranno i miei eventuali discendenti nell'anno 1960. La Chiesa sì, se ne deve curare perché è destinata a non morire. Nella sua disperazione è implicito il conforto. E credete voi che se potesse adesso o se potrà in futuro salvare se stessa con il nostro sacrificio, non lo farebbe? Certo che lo farebbe. E farebbe bene. Padre Pirrone era talmente contento di non avere offeso il principe che non si offese neppure lui. Quella espressione disperazione in relazione alla Chiesa era inammissibile, ma la lunga abitudine del confessionale lo rendeva capace di apprezzare l'umore disilluso di don Fabrizio. Non bisognava però lasciar trionfare l'interlocutore. «Avrete due peccati da confessarmi sabato, eccellenza. Uno della carne di ieri, uno dello spirito di oggi. Ricordatevene.» Thank you. Pasto di mezzogiorno era quello principale e andò, grazie a Dio, del tutto liscio. Figurarsi che a Carolina, la figlia ventenne, accadde che uno dei boccoli che le incorniciavano il volto, sorretto da una forcina a quanto pare mal sicura, scivolasse e andasse a finire sul piatto. L'incidente, che un altro giorno avrebbe potuto essere increscioso, questa volta aumentò soltanto l'allegria, quando il fratello, che era seduto vicino alla ragazza, prese il ricciolo e se lo appuntò al collo, sicché pendeva lì come uno scapolare, perfino Don Fabrizio acconsentì a sorridere. La partenza, la destinazione, gli scopi di Tancredi erano ormai noti a tutti, e ognuno ne parlava, tranne Paolo, che mangiava in silenzio. Nessuno del resto era preoccupato, meno il principe, che nascondeva l'ansia non grave nella profondità del cuore, e Concetta, che era la sola a conservare un'ombra sulla bella fronte. La ragazza deve avere un sentimentuccio per quel briccone. Sarebbe una bella coppia. Ma temo che Tancredi debba mirar più in alto, intendo dire, più in basso. Oggi, poiché il rasserenamento politico aveva fugato le nebbie che in generale la oscuravano, la fondamentale bonomia di Don Fabrizio riappariva alla superficie. Per rassicurare la figlia si mise a spiegare la scarsa efficacia dei fucili dell'esercito regio. Parlò della mancanza di rigatura delle canne di quegli enormi schioppi e di quanta scarsa forza di penetrazione fossero dotati i proiettili che da essi uscivano, spiegazioni tecniche in malafede per giunta che pochi capirono e dalle quali nessuno fu convinto, ma che consolarono tutti perché erano riusciti a trasformare la guerra in un pulito diagramma di forze da quel caos estremamente concreto e sudicio che essa in realtà è. In amministrazione, dove il principe discese di nuovo dopo il pranzo, la luce entrava adesso di traverso e dai quadri dei feudi, ora in ombra, non ebbe a subire rimproveri. «Voscenza benedica», mormorarono Pastorello e Lonigro, i due affittuari di Ragattisi che avevano portato i carnaggi, quella parte del canone che si pagava in natura. Se ne stavano ben ritti, con gli occhi stupiti nei volti perfettamente rasati e stracotti dal sole. Diffondevano odor di mandria. Il principe parlò loro con cordialità nel suo dialetto stilizzatissimo, si informò delle loro famiglie, dello stato del bestiame, delle previsioni per il raccolto, poi chiese: «Avete portato qualche cosa?» E mentre i due dicevano che sì, che la roba era nella stanza vicina, il principe si vergognò un poco perché si era accorto che il colloquio era stato una ripetizione delle udienze di Re Ferdinando. «Aspettate 5 minuti e Ferrara vi darà le ricevute». Pose loro in mano un paio di ducati ciascuno, il che era più forse del valore di ciò che avevano portato. «Bevete un bicchiere alla nostra salute». E andò a guardare i carnaggi. Vi erano per terra 4 caci primo sale di 12 rotoli, 10 chili ciascuno. Li osservò con indifferenza, detestava questo formaggio. Vi erano 6 agnellini, gli ultimi dell'annata, con le teste pateticamente abbandonate al di sopra della larga piaga dalla quale la loro vita era uscita poche ore prima. Anche i loro ventri erano stati squartati e gli intestini iridati pendevano fuori. Il Signore abbia l'anima sua, pensò, ricordando lo sbudellato di un mese fa. Quattro paia di galline attaccate per le zampe si dibattevano per paura sotto il muso inquirente di Bendicò. Lo spettacolo di sangue e di terrore lo disgustò. Tu, pastorello, porta le galline al pollaio. Per ora non ce n'è bisogno in dispensa. E un'altra volta gli agnelli portali direttamente in cucina. Qui sporcano. E tu, lo nigro, vai a dire a Salvatore che venga a far pulizia ed a portar via i formaggi. E aprì la finestra per far uscire l'odore. Poi entrò Ferrara con le ricevute. Pietro Biondi ha letto Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.